America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Pastor Jones, is there anybody in America you respect enough that if they made a phone call to you, you'd decide not to burn the Korans? No, there's not. Potrebbe esserci qualcuno di influente, qualche americano che lei rispetta, che possa convincerla a non bruciare il Corano sabato prossimo? A questa domanda il reverendo Terry Jones risponde semplicemente di no. Avete sentito questo scambio in una trasmissione televisiva di ieri, uno scambio che riflette una nuova tensione qui in America, quella che riguarda le imminenti ricorrenze dell'attacco dell'11 settembre, un nuovo problema per il presidente Barack Obama, che finora si è occupato di economia, lo ha fatto di nuovo ieri e fra poco ce ne occuperemo. Perché? Perché Obama ancora non si è pronunciato in materia. E dunque due fronti aperti in questa settimana politica del presidente, in questa settimana in cui riprende l'attività politica a Washington, quello economico e politico interno, appunto, e quello invece così un po' più delicato che riguarda la relazione con il mondo islamico. Ma cominciamo dall'economia, sentiamo cosa ha avuto da dire di nuovo ieri il presidente Obama. Make no mistake, he and his party believe we should also give a permanent tax cut to the wealthiest 2% of Americans. Rifatto il presidente da Cleveland, territorio del suo concorrente repubblicano Boehner, che potrebbe essere il nuovo capo della maggioranza repubblicana alla Camera se alle elezioni di novembre i democratici perderanno, come ci dicono alcuni sondaggi. Dicevo, la proposta di Obama lanciata da Cleveland è quella di un baratto. C'è un baratto sul tavolo, e cioè una misura fiscale pro business da quasi 200 miliardi di dollari in ammortamenti immediati degli investimenti, la possibilità di spesare fra il 2010 e il 2011 gli investimenti aziendali in cambio di un aumento delle tasse per il 2% della popolazione americana, per tutti coloro cioè che guadagnano più di 250 mila dollari all'anno se sono una coppia e 200 mila dollari all'anno se sono una persona singola. With all the other budgetary pressures we have, with all the Republicans talk about wanting to shrink the deficit, they would have us borrow $700 billion over the next 10 years to give a tax cut of about $100,000 each to folks who are already millionaires. E qui il presidente spiega la sua posizione, dice che le tasse per i più ricchi non sono una posizione. Il problema, sostiene il presidente, è che non possiamo permetterci un conto da 700 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per favorire coloro che già stanno molto bene. Però Obama è pronto a rendere permanente i tagli fiscali per i più poveri. Dunque c'è un po' di movimento. Barack Obama che si sposta verso il centro, cerca di attirare quell'elettorato che in questo momento lo guarda con sospetto, lo fa però con un discorso caratterizzato molto da toni populistici che hanno proprio messo in guardia questo stesso elettorato. Dunque, secondo me, questo discorso potrebbe avere poi un impatto misto. Ma è chiaro che il presidente tende la mano ai repubblicani e cerca di dimostrare che si sta davvero occupando e preoccupando del rischio che in questo momento sta correndo l'economia. Lunedì, lo abbiamo visto, ha proposto 50 miliardi di dollari in spese infrastrutturali, domani avrà una importante conferenza stampa riassuntiva sulle tematiche economiche e probabilmente si pronuncerà sulla questione del Corano. Ma finiamo la discussione economica. Abbiamo con noi in linea Luigi Zingales, editorialista del Sole 24 Ore, professore di economia alla Chicago University, e a lui chiediamo una valutazione di questa settimana economica di Obama. Sicuramente Obama deve convergere al centro, è lì dove sta perdendo i consensi, e anche prospettivamente è facile che debba gestire un congresso repubblicano e quindi fa delle proposte che abbiano più in sintonia con le proposte che vengono dai repubblicani. E questi circa 40 miliardi di dollari all'anno che si potrebbero risparmiare se davvero si imporrà la tassa sul 2% più ricco della popolazione, dove dovrebbero andare? Beh, innanzitutto non è che questi soldi si vengono risparmiati, questi soldi vengono presi dai cittadini e dovrebbero aiutare a ridurre il deficit. Questo secondo me è una cosa importante a lungo periodo. Bene, grazie, ringraziamo Luigi Zingales, professore di economia a Chicago. I don't think he should be doing it. I think we should respect each other's religions, but nevertheless, either you believe in the First Amendment or you don't, and he has a right to do it. And we're fighting just as hard for his right, even when I think it is boneheaded and wrong. L'errore è del sindaco Michael Bloomberg, me lo aveva detto qualche giorno fa Paul Berman, un professore alla New York University, autore di vari libri nel rapporto fra terrorismo e liberalismo, secondo il quale il sindaco di New York aveva sbagliato nel concedere il diritto per la costruzione di una moschea vicino a Ground Zero. Ebbene, nella dichiarazione che avete sentito poco fa, Bloomberg conferma la sua posizione liberista, cioè che i diritti di libertà di espressione valgono per tutti, e lo conferma al punto che si sposta a un'estremità opposta del dibattito, e cioè in risposta alla primissima domanda che abbiamo sentito in apertura di trasmissione, cioè se ci fosse qualcuno che fosse in grado di far cambiare idea al reverendo Jones, e Jones diceva no, ebbene Bloomberg scende in campo dicendo beh, in effetti il signor Jones ha i diritti costituzionali per fare quello che vuol fare, e cioè per bruciare il Corano pubblicamente. Non sono d'accordo, non la ritengo una buona idea, precisa Bloomberg, eppure il suo diritto costituzionale è inalienabile. E dunque il dibattito aperto, la tensione sale, c'è stato un incontro a Washington di vari esponenti di denominazioni e religioni diverse, e protestanti, cattolici, rabbini ebrei, anche musulmani insieme hanno cercato di allentare una tensione che invece continua a crescere. Le voci che avete sentito poco fa sono di una folla irritata che sta bruciando una bandiera americana in piazza a Kabul, e se davvero si andrà avanti con questa azione del reverendo Jones, cioè di bruciare il Corano in pubblico l'11 settembre per rispondere in modo drammatico a quello che secondo lui è stato un affronto dell'Islam nei confronti degli Stati Uniti, e beh, il rischio è che la fiammata di reazione negativa possa espandersi a livello internazionale, nel mondo islamico, nel mondo arabo, e sentiamo cosa ha da dire questo imam. It is the duty of Muslims to react. When the holy book, the Quran, gets burnt in public, then there's nothing left. If this happens, I think the first reaction that will follow is that wherever Americans are seen, no matter where they are in the world, they will be killed. La dichiarazione è chiara. Qualunque americano d'ora in avanti potrebbe essere a rischio nel momento in cui si trova in un mondo islamico. L'affronto di bruciare il Corano potrà essere soltanto ripagato col sangue. Ebbene, non potremo che augurarci che ci sia una diminuzione di questa polarizzazione religiosa, ma per saperlo dovremo aspettare l'11 settembre. Il pronostico per ora è che il Corano sarà davvero bruciato in Florida. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo un anno difficile, costellato di critiche, MIA, Missing in Action, ha annunciato il suo tour annuale. Partirà da Montreal il 21 di settembre, arriverà a Washington, Philadelphia, Boston, New York, Chicago, e soprattutto arriverà in Italia fra il 2 e il 3 dicembre con due concerti a Roma e a Milano. Di MIA sentiamo Paper Planes. Step again to uncle tonight game. Everyone's a winner, we're making up. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!